Italia in controluce. Ultima puntata della settimana di Italia in controluce, puntata dedicata a quanto successo questa mattina nel mare di Lampedusa. Fatti ancora in realtà tutti da chiarire, di certo ci sono una cinquantina di persone recuperate dal mare o aggrappate ad uno scoglio e un numero imprecisato di persone che invece dal mare forse non riemergeranno mai più. Ma cerchiamo di capire meglio cosa sia successo, lo facciamo in studio con Valentina Furlanetto. Sì, buongiorno Piera, buongiorno agli ascoltatori. Ovviamente stiamo seguendo minuto per minuto gli aggiornamenti che arrivano dalla Guardia Costiera e dalla Guardia di Finanza, che stanno facendo delle operazioni di soccorso nel canale di Sicilia. Quello che sappiamo per ora è che ci sono 56 sopravvissuti, tra i quali una donna incinta. C'è una persona, un cadavere recuperato in mare, quindi una vittima ufficiale, decine di dispersi. C'è chi dice più di 40, perché i sopravvissuti hanno parlato di una barca sulla quale c'erano un centinaio, addirittura 150, ha detto qualcuno 150 persone, quindi sarebbero almeno una quarantina i dispersi, un bilancio chiaramente provvisorio, ma chiaramente il naufragio che è avvenuto nella notte a circa 10 miglia al largo di Lampedusa, di questo naufragio si saprà di più nelle prossime ore. È avvenuto appunto al largo dell'isola siciliana questa notte. Sono entrate in soccorso subito le navi della Guardia Costiera, anche tre navi militari della NATO. Nessuna traccia, come dicevi, è stata trovata del barcone. La maggior parte dei naufraghi era riuscita a raggiungere a nuoto l'isolotto di Lampione, dove sono stati recuperati. Due sono stati raccolti addirittura in mare dalla nave militare tedesca della NATO. Un naufrago in precarie condizioni invece è stato trasportato in elicottero. Come sono stati individuati questi migranti? Lo sentiamo dal capitano della Guardia di Finanza di Lampedusa, Davide Miserendino. Siamo stati contattati via telefono, non noi direttamente, ma l'autorità che sta gestendo il coordinamento, che è la Capitaneria di Porto. Tutti quanti naturalmente abbiamo dato subito la nostra disponibilità per l'impiego dei mezzi navali, sia noi, la Capitaneria di Porto, la Guardia di Finanza, comunque i carabinieri e i mezzi NATO. Siamo intervenuti cercando, dividendoci le zone di competenza. In che condizione avete trovato queste persone? In una condizione veramente particolare, sono stati a mare in acqua tantissime ore, fortunatamente i soccorsi sono stati veloci ed è stato anche un po' complicato recuperarli, però fortunatamente siamo riusciti almeno a prendere questi. Feriti no, più che altro il problema è stato l'ipotermia, qualcuno a rischio di ipotermia, naturalmente essendo stato molto tempo a mare questo è un rischio che si può correre. Ci sono donne, bambini? Attualmente è stata recuperata una donna in mare. E di che nazionalità sono? Sono tutti tunisini o comunque della zona maghrebina. Partiti dalla Tunisia? Presumibilmente sì. C'è un giallo intorno all'imbarcazione, sembra che non si trovi. Questo è vero, l'imbarcazione non si trova. Potrebbe essere affondata? Sì, presumibilmente sì. Magari imbarcava da acqua ed è poi affondata. Come avete sentito c'è un giallo intorno alla fine che ha fatto questo barcone, che potrebbe essere affondato, potrebbe essere invece tornato, gli scafisti potrebbero aver buttato a mare le persone a bordo e poi tornati indietro. Molti di loro, secondo l'ipotesi di questo capitano, molte di queste persone disperse potrebbero essere rimaste intrappolate all'interno dello scafo e la barca sarebbe affondata e a questo punto si chiarirebbe anche il giallo intorno ai dispersi. I sommozzatori sono alla ricerca chiaramente del relitto e delle persone. La procura di Agrigento ha aperto un'inchiesta sul naufragio per capire se ci siano scafisti anche tra i sopravvissuti. Grazie Valentina Furlanetto per averci un po' spiegato come sono andati i fatti che naturalmente si chiariranno nelle prossime ore, che riaccendono i riflettori su un fenomeno, quello dell'immigrazione clandestina, che ha subito dei rallentamenti in certi periodi ma che in realtà non si è mai arrestato del tutto. Fenomeno che ha suscitato anche nel recente passato tante polemiche, anche tanti polveroni a volte. Ricorderete sicuramente la promessa dell'ex presidente del Consiglio Berlusconi, che rassicurò i lampedusani: bloccherò l'immigrazione clandestina, rilancerò il turismo, tanto che aveva anche comprato una villa sull'isola, villa che però, denunciavano le foto pubblicate qualche giorno fa dai giornali, sarebbe rimasta abbandonata e sarebbe in piena decadenza. Ma veniamo dunque a Lampedusa, come sta vivendo l'isola questa nuova emergenza, se di emergenza possiamo parlare. Allora lo chiediamo al sindaco di Lampedusa in diretta con noi, Giusi Nicolini. Buongiorno. Buongiorno a lei. Di emergenza possiamo parlare, di nuova emergenza? Ma no, questa è la normalità. Questa è un'isola che la geografia ha destinato a questo ruolo di accoglienza, di isola ponte. E l'emergenza viene costruita quando da questo ruolo l'isola viene trasformata invece in luogo di detenzione, così come è stato nel 2011. Così non è, perché ora quali strutture accolgono i migranti che arrivano? Il centro di prima soccorso e accoglienza, che c'è sempre stato e peraltro è stato aperto anche con meno posti rispetto al passato. Eppure per tutta l'estate sono state soccorse le persone, sono state ospitate nel rispetto della loro dignità umana, senza creare condizioni di sovraffollamento. Semplicemente perché quest'anno il governo, il ministro Cancellieri, ha rispettato gli impegni presi, garantendo un turnover molto veloce dentro il centro, quindi effettuando trasferimenti. I migranti arrivano e poi vengono immediatamente trasferiti. Ma questo è Lampedusa, un luogo di soccorso e di passaggio, è un ponte Lampedusa. Sì, certo. Signora Nicolini, come reagiscono i lampedusani? Perché nel passato ci sono stati anche un po' di moti di sofferenza. Ma l'insofferenza era verso appunto il trattamento che veniva riservato a Lampedusa. Lampedusa non può essere un luogo di detenzione, perché poi alla fine vivono male i migranti che vengono appunto accolti in condizioni di sovraffollamento e quindi disumane, e vivono male i lampedusani, che fondano la loro economia sul turismo e hanno bisogno di serenità. Gli equilibri di un piccolo ambiente insulare sono fragili, non solo da un punto di vista ambientale, ma anche da un punto di vista sociale. Assolutamente. Ecco, dicevamo del turismo, in effetti si è appena conclusa l'estate. Come è andata? Sono tornati i turisti a Lampedusa? Sono tornati, è iniziata un po' timidamente a giugno, ma poi è andata bene. Ci stiamo attestando sui dati del 2010, quindi posso dire che è andata bene, posso dire che Lampedusa sta riguadagnando non solo il suo ruolo di isola di accoglienza, ma anche la sua immagine di meraviglioso luogo dove trascorrere le vacanze. Certamente noi siamo più contenti quando arrivano tutti vivi, e queste tragedie come questa di oggi, le mi chiedeva come la vivono i lampedusani, la viviamo con dolore, perché non è bello ricevere corpi morti, e non è questo che vorremmo, e speriamo che ci si renda conto di questo, speriamo che qualcuno capisca che questi uomini non possono essere fermati, e non si può consentire che continuino a fare questi viaggi, che continuino a morire a mare. Ma questo non dipende da Lampedusa. Lampedusa tutto quello che può lo fa, a partire dagli uomini in trincea, in prima linea, gli uomini dello Stato, della Guardia Costiera, della Guardia di Finanza, dei Carabinieri che rischiano la loro vita per salvarli, ma anche degli lampedusani. A queste operazioni di ricerca e soccorso stanno partecipando anche i centri di immersione locali, i pescatori, gli operatori dell'area marina protetta. Noi facciamo di tutto, facciamo tutto il possibile. Grazie al sindaco di Lampedusa Giusi Nicolini, allora, per averci raccontato questa non emergenza, perché secondo il sindaco di questo si deve parlare. È della stessa opinione Laura Boldrini, dell'Alto Commissariato dell'ONU per i rifugiati politici. La nostra Valentina Furlanetto l'ha sentita poco fa. Non stiamo di fronte a un'emergenza. Il fatto che in Italia quest'anno siano arrivate 7.000 persone via mare, questo numero è assolutamente contenuto, tanto più se paragonato a quello dell'anno scorso, di questi tempi, dove 52.000 persone erano giunte sulle spiagge italiane, a seguito anche della primavera araba, quindi di quanto stava accadendo nella sponda sud del Mediterraneo. Io però devo anche ricordare che bisogna allargare la lente per far capire all'opinione pubblica di che cosa stiamo parlando, perché se la lente si focalizza solo su un piccolo frammento si perde di vista il contesto. Lo scorso anno nella sponda sud del Mediterraneo c'è stato un cambiamento radicale in molti paesi, e questo in alcuni ha causato un vero scontro, un conflitto. E il conflitto chiaramente crea anche una situazione di fuga. Quello che preoccupa è che la gente continua a morire in mare. decine di persone sono disperse, dunque questa è la vera emergenza. Cosa si può fare quindi per evitare questi drammi di persone che muoiono nel Mediterraneo? Nel mondo ideale quello che si dovrebbe fare è cercare di risolvere i motivi che stanno alla base della fuga. Perché una persona mette i propri figli su una carretta del mare? Certo che non è una scelta questa, è una situazione limite, nessuno vorrebbe farlo, glielo assicuro. Allora bisognerebbe capire perché questo accade, e questo accade spesso per le guerre, per le violazioni dei diritti umani, per la povertà estrema, e allora è lì che bisognerebbe cercare di lavorare sulla soluzione dei conflitti, su dare a questi paesi la possibilità di uno sviluppo più sostenibile. Quindi le cause sono queste. Arrivando al Mediterraneo, quello che si potrebbe fare è sicuramente fare un coordinamento più intenso nel mare tra mezzi, come dire, dei corpi dello Stato e chi opera in mare a livello commerciale, quindi le navi cargo, i pescherecci, cercare di avere un coordinamento più forte, che purtroppo negli ultimi tempi diciamo che si è affievolito, anche perché la percezione che si ha è che chi soccorre in mare persone che non hanno in tasca un documento poi può avere dei problemi con la giustizia, può avere i propri mezzi fermi, e questo ha scoraggiato il soccorso in mare. Allora bisogna ricordare che invece il soccorso in mare è un obbligo giuridico, è un obbligo morale, bisogna soccorrere le persone in mare, ecco, e bisogna farlo perché altrimenti si fa omissione di soccorso, che sia un reato. Grazie dunque a Laura Boldrini, portavoce dell'Alto Commissariato ONU per i rifugiati politici. Grazie alla nostra Valentina Furlanetto per aver realizzato questo approfondimento. Si chiude qui questa puntata di Italia in Controluce. La potete riascoltare cliccando sul nostro sito radio24.it. Lunedì invece alle 13.30 torna a scuola in Controluce, che in questa nuova stagione si sposta dunque dal venerdì al lunedì. Naturalmente parleremo della scuola che riparte fra i suoi mille problemi. Un saluto da Maria Piera Ceci.